Perfetta notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. For a lot of reason I think my answer was no, but like always say, you never know. I mean, you just have to play and try your best, and the good things coming when you never expect most of the time. Sì, sì, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, era in inglese, ma è una grande italiana, Flavia Pennetta, che dice praticamente in finale: good things coming when you never expect. Le cose migliori arrivano quando neanche te l'aspetti, ed è veramente arrivata una notizia dirompente. Non solo Flavia Pennetta, la tennista italiana, ha vinto, ha conquistato la semifinale contro la rumena Halep, ha vinto questo pomeriggio, ma è notizia di pochi istanti fa che Roberta Vinci ha battuto, pensate, una specie di Terminator che è Serena Williams. Chi si sarebbe mai aspettato che la piccola Vinci, perché sono le nostre tenniste, sono quella specie di corazzieri, no? Che sono le altre tenniste internazionali. Eppure la Pennetta, che ha vinto contro la rumena, è la Vinci contro l'imbattibile Serena Williams. Quindi pensate, credo che sia la prima volta nella storia del tennis, almeno del US Open, che due italiane si sfidano nella finalissima. Guardate, una grande notizia di cui parleremo ampiamente qua a Effetto Notte. Sono un po' emozionate, e poi naturalmente parleremo di tante altre notizie, come sempre qui in trasmissione dalle 21 alle 22. Voi avete sempre gli spazi aperti per esprimere le vostre opinioni, per focalizzare alcune notizie della giornata o della settimana. Pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri interventi di giorno e di notte, oppure gli SMS, se potete inviarli al 349-238-6666. E allora adesso andiamo appunto con i titoli, il riassunto della giornata e poi gli ospiti. Punto tennis, grande tennis con Pennetta Vinci, che saranno in finale US Open. È una finale tutta italiana. E poi emergenza migranti: secondo i dati dell'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nei primi 9 mesi del 2015 sono stati 432.000 gli arrivi via mare, le persone annegate 2.748. Intanto sono in migliaia alle frontiere di Austria e Ungheria. Stati Uniti, 14 anni fa, l'11 settembre, Obama ha detto: ora siamo più forti che mai. E l'ISIS intanto minaccia dei cyberattacchi e c'è l'allerta dell'FBI. Alla Mecca crolla una gru sui pellegrini, almeno 87 i morti e oltre 150 i feriti. Economia italiana, segni di ripresa. Dopo i consumi cresce anche la produzione industriale, ma il presidente di Confindustria, Squinzi, è cauto, dice: i dati devono essere poi confermati. L'omicidio di Iara, i genitori in aula con l'imputato Bossetti per la ripresa del processo. Il padre piange e dice: era il sale della nostra vita. Napoli, folla commossa oggi ai funerali del 17enne Jenny, ucciso a colpi di pistola. Cinema a Venezia, piace il film di Gaudino, Per amor vostro, con Valeria Golino, e al Lido sbarca anche Vasco Rossi. Tennis, lo avete sentito. E partiamo quindi da questa veramente giornata memorabile per il tennis italiano con Pennetta Vinci. Pennetta, vi ho appena detto, che ha battuto la rumena Halep nel pomeriggio, e poi Roberta Vinci, Serena Williams, una cosa secondo me era veramente incredibile. Eppure tutte e due si ritroveranno a sfidarsi reciprocamente nella finale a US Open. Ne parliamo con Barbara Rossi, grande ex tennista. Buonasera Barbara. Buonasera a voi, sono ancora emozionata. Anch'io Barbara, commentatrice di Eurosport, Barbara Rossi, trasmette in esclusiva US Open e quindi anche le finali maschili e femminili nei prossimi giorni. Barbara, io appunto sono senza parole, quindi le lascio a te. Che dire di questa sorpresa? Ma sono due grandi ragazze. Oggi ho commentato la partita di Pennetta con la Halep, i precedenti erano 3-1 per la Pennetta, quindi insomma è una giocatrice che aveva già battuto, però una semifinale di Slam, mai Flavia era arrivata in una finale, quindi ci poteva essere la preoccupazione, la tensione di una partita così importante. Invece è andata via liscio, ha giocato benissimo dall'inizio alla fine. Alla fine sembrava che giocasse un punto di un torneo qualunque, invece era il punto per arrivare in finale, è stata perfetta. Però diciamo che le emozioni sono state un po' sottotono, perché la partita non c'è stata, è stata troppo brava Flavia. Invece Roberta ha battuto la Williams, nessuno avrebbe mai pensato che avrebbe battuto la Williams. Dopo il primo set sembrava tutto facile per l'americana, invece poi il suo back ha fatto veramente andare in confusione Williams, che non sapeva più cosa fare, ha cominciato a essere molto agitata, ha perso la battuta più e più volte, e alla fine l'ultimo game, 5-4 del terzo set, ha servito Roberta, l'ha vinto a 0. È stato, tra l'altro, facendo le sue demi-volée, le volée corte, cioè tutte le cose che lei sa fare in maniera magistrale. Insomma, ero emozionata. Lo sento, lo sono anch'io, guarda, veramente ho i brividi, perché poi io ero convinta, basta pronunciare il nome di Serena Williams, insomma, dice, è una specie di Terminator, non mai avrei pensato, sinceramente, senza sottovalutare per carità le nostre tenniste, però... No? Era in missione, tra l'altro, insomma, ricordiamo che se avesse vinto questo US Open avrebbe fatto il grande slam, vuol dire vincere tutti e quattro gli slam nell'arco di un anno, quindi era decisa, aveva giocato due partite magnifiche, una con una giovanissima Madison Keys e poi l'altra con la sorella Venus Williams, perfette, quindi chi si sarebbe mai immaginato che Roberta, col suo tennis un po' vintage, un po' diverso, nessuno gioca mai più così, con il back, il gioco al rete, con le palle corte, avrebbe comunque messo in difficoltà la Williams, invece è successo. Barbara, per chiudere, era mai successo che in una finale allo slam americano si trovassero due italiane? Mai, cioè una cosa storica, unica, quindi noi ci godremo la finale belli tranquilli, e chi vincerà andrà bene per tutti. Ci andrà bene comunque, si sa già la data? La sai già tu? Allora, si dovrebbe giocare domani a seconda del tempo, perché c'è un po' di pioggia in arrivo, infatti è stata rimandata la partita, le ragazze dovevano già giocare ieri, invece è piovuto, quindi vedremo un po' come andrà il tempo. E seguiremo Barbara Rossi che fa il commento su Eurosport. Grazie infinite Barbara. Grazie a voi. E buona Grazie. Continuazione. Ciao Barbara. Continuazione straordinaria anche domani, se c'è questa finale. Intanto spostiamoci sulle altre notizie, naturalmente meno piacevoli. C'è sempre appunto l'emergenza migranti. Secondo i dati dell'OIM, cioè dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, è stato un record di sbarchi quest'anno, 432.000 arrivati dal Mediterraneo, e sono morti in 2.478 morti, persone annegate. Intanto si apprende che la fase 2 della missione navale dell'Unione Europea nel Mediterraneo, che prevede caccia attiva, arresto degli scafisti e confisca o distruzione dei barconi, potrebbe scattare al più tardi entro i primi di ottobre. Questo lo indicano fonti dell'Unione Europea. Il 16 settembre si terrà la conferenza per la Force Generation, la raccolta di mezzi supplementari, forze specializzate per gli abbordaggi agli scafisti. Inoltre, la presidenza lussemburghese dell'Europa ha deciso di aprire la discussione sulla situazione straordinaria dei migranti ai fini anche del patto di stabilità, quindi rientrano anche questioni economico-finanziarie, quindi allo scorporo, insomma, dei fondi. Lo ha annunciato il ministro dell'economia lussemburghese al termine dell'Ecofin, la riunione dei ministri dell'economia e delle finanze. Nel frattempo il primo ministro ungherese Orban annuncia che sarà immediatamente arrestato chiunque entrerà in Ungheria clandestinamente, e per completare il fatidico muro anti-immigranti al confine con la Serbia, Orban schiera addirittura anche oltre una cinquantina di detenuti. E poi, per restare all'estero, oggi a New York le celebrazioni per l'anniversario degli attentati dell'11 settembre, con Obama che nel suo discorso alla nazione ha detto: 14 anni dopo l'attacco noi siamo più forti che mai. E dopo ci collegheremo direttamente con New York per sentire com'è andata questa giornata, e anche perché sono successe poi altre cose. È stata evacuata la Union Station per una sparatoria. Dopo ci aggiorniamo con il nostro corrispondente da New York. E ancora all'estero, si aggrava invece il bilancio del crollo di una gru sulla principale moschea a Mecca in Arabia Saudita e prima città santa dell'Islam. La protezione civile di Riyadh riferisce di almeno 87 morti e 154 feriti. Siamo all'estero, in vista dell'arrivo di Papa Francesco, il governo cubano concede la grazia a 3.522 detenuti. Occorre trovare al più presto una soluzione condivisa alla crisi in corso, così il Papa nel suo colloquio con il presidente serbo Tomislav Nikolic, durante il quale affronta la condizione dei profughi e dei rifugiati siriani ed iracheni. Una lunga giornata di incontri, quella di oggi per il pontefice, tra cui anche un'udienza con i partecipanti al meeting internazionale su giustizia ambientale e cambiamento climatico, dove si discute di clima, parlino i poveri, ammonisce Francesco, secondo il quale il clima è un bene comune di difenderlo è una questione di solidarietà verso i più deboli e poveri. La questione del clima è una questione di giustizia e anche di solidarietà, che dalla giustizia non va mai separata. Nei prossimi giorni il pontefice visiterà Cuba. Intanto il quotidiano dell'Havana, Granma, annuncia che il governo, prima del suo viaggio previsto dal 19 al 28 settembre, concederà l'amnistia a 3.522 prigionieri. La misura coinvolge un numero mai così elevato dai tempi della rivoluzione castrista del 1959. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. E passiamo all'economia italiana, per la quale ci sono buone notizie che arrivano dalla produzione industriale. Un altro mese è il secondo di crescita della produzione industriale in Italia. A luglio l'indice, come reso noto dall'Istat, è aumentato dell'1,1% rispetto a giugno. In termini tendenziali l'aumento è stato del 2,7%, un andamento che ha fatto crescere la produzione nei primi sette mesi dell'anno dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2014. In testa l'auto e l'energia. Un dato importante per il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, ospite dell'Assemblea dell'Unione Industriale di Torino, che parla di clima nuovo, ma resta cauto. È chiaro che dopo 13 trimestri di PIL negativo, due trimestri positivi sicuramente sono un cambiamento di segno, però non possiamo anche dimenticare che abbiamo avuto una serie di coincidenze di fattori, almeno tre esterni al paese: il prezzo del petrolio, il cambio col dollaro che è passato da 1,40 a 1,12 e il quantitative easing della Banca Centrale Europea di Mario Draghi, che ha reso molto più contenuto il costo del denaro per tutte le imprese. E a Torino i dati sulla crescita dell'automotive pesano più che altrove, con il comparto dei mezzi di trasporto che segna la maggior crescita tendenziale, più 20,1%. All'interno gli autoveicoli crescono del 44,9%, una percentuale che balza al 72% se si considera soltanto la produzione di autovetture. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. Siamo alla cronaca. Oggi è ripreso il processo per l'omicidio della piccola Yara Gambirasio, un'udienza particolarmente rilevante quella del processo a Bergamo, anche sul piano emotivo, perché sono stati chiamati a deporre anche i genitori della tredicenne uccisa nel 2010. Su richiesta dei difensori, l'imputato, il carpentiere Massimo Bossetti, è stato fatto sedere al loro fianco e non nella gabbia di vetro da dove ha seguito le prime due udienze. E poi a Napoli una folla commossa ai funerali di Gennaro Cesarano, oggi il 17 ucciso la notte del 5 settembre a colpi di pistola. Per noi c'è Laura Viggiano. Ciao Laura, ci sono stati stamattina presto questi funerali a Napoli. Sì, Roberta, ci sono svolti per motivi di sicurezza intorno alle 8. Questa mattina era insolitamente silenzioso, perché la sanità ha composto, sebbene scosso per la morte violenta di un 17enne, centinaia di giovani e donne sono tornati in strada e hanno riempito la chiesa davanti alla quale Gennaro Cesarano è stato ammazzato nel corso di un raid criminale, come dicevi. Intanto restano i nastri viola in segno di lutto legati al tracciato della chiesa, resteranno fin quando non saranno date risposte concrete, ha detto Don Antonio Lofredo, parroco del quartiere, che conosceva bene Gemmi, un adolescente etichettato come criminale solo perché era della sanità, ci ha detto. In chiesa erano presenti anche altri parroci provenienti da quartieri popolari difficili come quello della sanità. Hanno voluto dare un segnale di unità contro la camorra assassina. Padre Alex Zanotelli ha sottolineato che le responsabilità sono di tutti. In alcuni punti oggi erano visibili anche le forze dell'ordine, i vigili generalmente assenti. Lo erano anche nella piazza scenario dell'omicidio di Gemmi, che è il luogo di ritrovo per i ragazzi del quartiere, che ora sostano davanti all'albero d'olivo piantato in ricordo del compagno. Gemmi vive, si legge su striscioni e magliette, ma nonostante la speranza che si è accesa con le reazioni di questi giorni in un momento tanto tragico, non tutti credono, pur chiedendola con convinzione, in una risposta concreta delle istituzioni. Grazie Laura Viggiano, e spesso succede così, come ha detto qualche mamma che è stata intervistata anche da Laura Viggiano lì a Napoli. Oggi tanto clamore emotivo, poi domani nessuno parlerà più di noi. Intanto spostiamoci però invece vicino Milano, 50 km da Milano, c'è stato il raduno non autorizzato di Casa Pound, iniziato intorno alle 19 a Castano Primo, appunto appena fuori Milano. Circa 150 militanti del movimento di estrema destra si sono radunati sfidando la revoca dell'autorizzazione, ed era lì presente la nostra Livia Zancaner. Livia, com'è andata questa? Sì. L'inizio di una tre giorni, tra l'altro, no? Sì, allora Roberto, buonasera. È iniziato oggi il raduno nazionale di Casa Pound, che durerà fino a domenica, sono infatti 3 giorni. Allora, bisogna subito dire che la situazione era tranquilla, come dicevi tu c'erano circa 150-200 persone, loro ne aspettano 3.000 tra domani e domenica, o forse anche meno, viste le polemiche. Le polemiche quali sono? Allora, il sindaco ha revocato l'autorizzazione alla manifestazione, divieto confermato oggi dalla prefettura di Milano. Il presidente di Casa Pound, Gianluca Iannone, che abbiamo intervistato, ci ha detto che la decisione è arrivata per volere dei soliti noti, cioè gli antifascisti, ci ha detto, dice chi ne ha dubitato, che cerca di impedire la manifestazione con intimidazione e metodi mafiosi, non ha capito nulla del movimento, del nostro modo di fare politica, quindi andremo avanti. Ci ha detto abbiamo ottenuto l'autorizzazione 3 mesi fa e quindi la festa continuerà, ma se dovesse arrivare l'ordine di sgombero ci sposteremo tutti a Milano in Piazza Duomo, quindi comunque loro andranno avanti in ogni caso. E stasera ad aprire i lavori sul palco c'era il vicepresidente di Casa Pound Simone Di Stefano, insieme a lui il senatore della Lega Nord Raffaele Volpi, a moderare il giornalista di Libero Francesco Borgonova, ed è intervenuto anche al telefono Maurizio Belpietro. Il dibattito era concentrato sull'Europa, sulla sovranità, quindi sull'immigrazione, e poi la festa continuava in serata, quindi probabilmente è in corso, con cena e spettacolo di burlesque. Grazie Livia Zancaner, questa per quanto riguarda la cronaca. Adesso siamo verso la fine di questa prima parte di Effetto Notte, parliamo di cinema, perché a Venezia è stato il giorno del quarto film italiano in concorso, Per Amor Vostro di Gaudino con Valeria Golino, accolto da molti applausi pare, e però anche da qualche buu. E al Lido è sbarcato anche Vasco Rossi con il docufilm che parla di lui, e sul red carpet anche la marcia di solidarietà per i migranti degli Scalzi, donne e uomini di varie nazionalità, una delegazione di 20 persone. Sapete che oggi è stata questa manifestazione in 70 città italiane. Bene, mentre sto per lanciare la viabilità, vedo questa notizia di Roberta Vinci che piange, dice il momento più bello della mia vita, beh, insomma, battere Serena Williams, arrivare in finalissima allo slam americano. E poi i vostri messaggi, c'è Andrea Cortese, che è veramente molto cortese di Cuneo per quello che scrive, dico è reciproco, grazie Andrea. E poi un altro sms al 349-238-6666 a proposito di questa straordinaria impresa delle tenniste italiane: possiamo dire Davide Vinci contro Golia Williams? Possiamo dirlo senz'altro tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E tra poco ve le ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, anziché puntualmente alle 21, cioè con l'inizio di Effetto Notte, ma prima volevo vedere i vostri messaggi tra il 349-238-6666 per gli sms, e poi invece la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì a vostra disposizione, anche se volete aderire senza indugio, mi raccomando. Cristiano dice una tarantina e una brindisina in finale sul cemento di New York, il leccese ossequia la presentatrice che sarei io, la conduttrice, diciamo, sì è vero, perché Flavia Pennetta e Roberta Vinci sono tutte e due delle pugliesi, quindi anche una finale non solo italiana femminile ma pugliese. Grazie al messaggio per Giorgio Picchioni. Voi continuate con i vostri commenti sulle notizie di oggi, in particolare tra poco faremo il bilancio della settimana politica, quindi avete voglia di fare commenti, però prima vi ricordo le notizie più importanti. Questa straordinaria impresa delle tenniste Flavia Pennetta e Roberta Vinci, Pennetta che ha vinto contro la romena Halep e Roberta Vinci che ha battuto Terminator, io chiamo Serena Williams, e saranno tutte e due, si confronteranno nella finale italiana agli USA Open. E poi l'emergenza migranti, secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nei primi 9 mesi del 2015 sono arrivati 432.000 migranti dal mare, dal Mediterraneo, le persone annegate sono 2.748, intanto sono in migliaia alle frontiere di Austria e Ungheria. Stati Uniti, 14 anni fa l'11 settembre, Obama dice nel suo discorso ora siamo più forti che mai, intanto l'ISIS minaccia dei cyber attacchi e c'è l'allerta dell'FBI. Alla Mecca, in Arabia Saudita, crolla una gru sui pellegrini, le vittime sono almeno 87, oltre 150 i feriti. Economia italiana, segni di ripresa, dopo i consumi cresce anche la produzione industriale, anche se il presidente di Confindustria Squinzi è cauto, dice i dati devono però confermarsi. L'omicidio di Iare, genitori in aula con l'imputato Bossetti per la ripresa del processo, il padre piange e dice che Iara era il sale della loro vita. Napoli, folla commossa questa mattina ai funerali del 17enne Jenny, ucciso a colpi di pistola. Cinema, a Venezia piace il film de Gaudino per Amor Vostro con Valeria Golino e al Lido sbarca anche Vasco. Lo sapete, se non lo sapete sappiatelo e seguite sempre puntualmente Effetto Notte tutte le sere. È il momento, il venerdì, anche del bilancio della settimana politica italiana, diciamo politica in senso molto ampio, non solo dei partiti, non solo partitica. E a commentare puntualmente c'è sempre il nostro Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Caro Fabrizio. Buonasera a tutti, questa volta mi trovi su un treno però, te lo devo dire. Sentiamo se la voce è traballante, tu sei in equilibrio, sei stabile? Sì, sono stabili, ormai i treni diciamo sono moderni per cui. Fabrizio, e quindi anche chi intorno a te avrà la fortuna di essere aggiornato in tempo reale. Allora, i temi come sempre sono infiniti, no? La polemica sui Casa Monica, la saga infinita delle riforme, le frizioni nei partiti PD, NCD, i conti pubblici, via la Tasi, ma poi ci sono le coperture per le altre cose. Insomma, in ogni caso, sicuramente argomento sempre in testa a tutti gli altri è quello dell'emergenza immigrazione, con tutti i fronti aperti e chiusi, è il caso di dire i risvolti, i vertici, gli sviluppi che seguiamo di giorno in giorno. Come sapete, ieri il ministro Alfano, ministro dell'Interno, ha detto: sono soddisfatto per la virata che c'è stata in Europa. In effetti, al di là della costruzione di muri, di chi blocca i treni, i flussi sono comunque in certi paesi da record. Per esempio in Ungheria c'è un inviato dell'ANSA che ha calcolato oggi che entrano decine di migranti ogni minuto in Ungheria. Comunque, al di là di questo, diciamo che l'Italia forse è almeno riuscita a ottenere dall'Europa un po' più di attenzione. Basti vedere la svolta della Merkel, il piano della Commissione Europea che sarà discusso lunedì, la mano tesa degli Stati Uniti. Che dici, Fabrizio Forché? Fa bene Alfano a dirsi soddisfatto? Dico, ma Alfano può essere soddisfatto. Dico che fa riflettere il fatto che per avere comprensione in Europa c'è voluto che l'emergenza si spostasse in Europa. Finché è stato uno dei paesi europei a supportare lo sforzo maggiore, l'emergenza maggiore della flusso di immigrati, il Nord Europa ha guardato da un'altra parte. Quando l'emergenza ha riguardato anche i paesi del Nord Europa, ci si è reso conto che l'Europa deve cambiare atteggiamento e quindi serve questa redistribuzione dei profughi. Era meglio forse che già un anno fa, quando questa emergenza riguardava più l'Italia, l'Europa avesse dimostrato una disponibilità che mostra ora, perché guarda caso la Germania è interessata dai flussi più massicci. Giusto per quello, insomma, una sorta di opportunismo a un certo punto per forza maggiore. Sentiamo però come si sono smossi i cuori, forse a parte la foto del bambino sulla spiaggia turca alla quale molti attribuiscono il fatto che tanti paesi, per esempio la Gran Bretagna, abbiano aperto un po' i varchi, le frontiere. La Gran Bretagna ha detto che darà più soldi, che ospiterà migliaia di siriani in particolare, ma sentiamo persino Salvini che cosa ha detto in TV. Ma il problema è mettersi d'accordo, e su questo è la grande ipocrisia di fondo. Accogliere chi scappa dalla guerra? Sì, subito, domani mattina, anche a casa mia. Guardiamo dove c'è la guerra, in Siria. Beh, c'è la guerra. Un profugo? Ma ci mancherebbe altro. Ho un bilocale, quindi non è che potrebbe sbizzarrissi. Un divano letto, lei dice, lo rimedio. Questo ha detto Agorà, però poi bisogna vedere se questo bilocale effettivamente lo ospiterebbe un profugo. Senti Fabrizio, sul fronte strettamente interno, ritornando di nuovo ad Alfano, c'è il nuovo centrodestra che perde pezzi. Sentiamo a un certo punto lo sfogo di Alfano. E invece noi siamo qui, siamo determinanti per il governo. Poi è chiaro che c'è chi vuole andare con Berlusconi vada con Berlusconi, chi vuole andare con Renzi vada con Renzi, chi vuole andare con Salvini vada con Salvini. Noi andiamo avanti con chi vuole stare con me, con noi, su un progetto che riunisca i moderati italiani in una prospettiva di governo fuori da ogni estremismo. Quindi accetto scommesse sul futuro. Ogni volta che hanno detto che noi avevamo problemi, alla fine della gara ci siamo trovati più numerosi di quelli che eravamo all'inizio della gara. Sarà così anche questa volta. Così disse Alfano, Fabrizio Forché. Ma Alfano mi sembra per la prima volta davvero in difficoltà da quando è nata la coalizione con Renzi. In difficoltà perché si sono resi conto di aver accettato un compromesso sulla legge elettorale che probabilmente per l'NCD è particolarmente oneroso. Il premio alla lista e non alla coalizione evidentemente indebolisce molto il partito nel momento in cui si andranno a fare le liste e quindi ci saranno le candidature al Parlamento. All'interno dell'NCD molti si stanno chiedendo perché dobbiamo votare questa riforma del Senato che poi rischia di portare a delle elezioni con un sistema elettorale nel quale forse noi non saremo nemmeno ricandidati perché Renzi non avrà più bisogno di noi. E quindi insomma politicamente per lui è un passaggio molto delicato questo del Senato. E questo si riallaccia appunto, come dicevi tu, al tema delle riforme, delle eventuali maggioranze alternative o variabili, come si dice, no? Per esempio sul tema delle unioni civili che NCD continua a fare, diciamo, una sorta altro di ostruzionismo. Ecco, per la maggioranza, ecco sì. Appunto questo o anche la riforma del Senato che fa sentire mal di pancia anche all'interno del PD, come sappiamo, no? L'area più di sinistra. Sentiamo per esempio l'ex segretario Bersani. C'è il libero convincimento dei senatori che davanti a temi costituzionali non possono essere chiamati a una generica disciplina. Nessun partito nella storia d'Italia ha mai chiamato alla disciplina davanti alla Costituzione. Questo è Radio Anch'io, no? Dice no, in questo caso quando si cambia la Costituzione la disciplina di partito non conta, anche se poi Bersani abbaia sempre, diciamo, e poi fa... Il confronto è tutto politico, io credo che prescinda molto dal merito e quindi per Renzi è più difficile di quanto altrimenti sarebbe, perché nel merito le possibilità di mediazione ci sono sempre, quando invece lo scontro è politico e quando l'opposizione al tuo partito in realtà ha come obiettivo primario non tanto il merito delle questioni ma il peso, dice all'interno. Ma la volontà di metterti davanti a una sconfitta politica. In questo momento credo che la partita sia quella. L'opposizione cerca di ottenere un cambio significativo nella riforma del Senato per rivendicare un successo politico e una sconfitta politica di Renzi. Renzi non vuole concedere nessun cambiamento, non credo perché venga chissà come stravolta la sua riforma, ma perché per lui sarebbe un cedimento politico davanti a una parte del suo partito che lo metterebbe poi successivamente davanti a ulteriori difficoltà nel dibattito politico interno al partito. Senti, sulla politica economica invece, Fabrizio Forché, sentiamo cosa è tornato a ribadire a Porta a Porta Renzi. L'IMU e la TASI il prossimo anno non si pagano. Una misura dal per il prossimo mezzo... anno non si pagano. Il prossimo anno e dal prossimo il e dal e dal. Cioè, quando io dico il 16 dicembre, siccome c'è la seconda rata, vuol dire che il 16 dicembre si paga l'IMU 2015 per l'ultima volta. Basta. Quindi fatevi una foto quando pagate l'IMU e la TASI e poi non si paga più. E ha detto quello che togliamo ai comuni lo restituiamo paro paro, però poi le opposizioni soprattutto hanno detto ma insomma qui dalla legge di stabilità che è in preparazione vengono escluse le risorse per gli esodati, per andare in pensione prima come invece era stato annunciato perché mancheranno le coperture, cosa fa? Leva allora la TASI però poi quelle risorse... Che pensi di queste manovre di politica economica? Ma penso che le risorse sono sicuramente scarse e trovare la copertura non sarà facile, anche perché nella legge di stabilità ed è nella legge di stabilità che Renzi abolirà la tassa sulla prima casa, Renzi dovrà trovare anche ben 10 miliardi per coprire il potenziale aumento dell'IVA che è previsto per l'anno prossimo. Per cui questa manovra già parte, come dire, da un meno 16 miliardi. Il governo già deve trovare 16 miliardi semplicemente per non fare aumentare le tasse, per non fare aumentare l'IVA. Questi 4 miliardi e mezzo circa, che è la tassa sulla prima casa più quella sugli imbullonati e l'IMU agricola, che è il pacchetto di riduzione fiscale annunciato da Renzi, sono altri 4 miliardi e mezzo che si aggiungono ai 16, quindi si arriva già a 20 miliardi. Insomma, come al solito, la legge di stabilità sarà un rebus difficile da portare a casa. Lo seguiremo su Storia 24 Ore, vediamo. Auguri al governo perché non è una situazione facile. Senti, un'ultima battuta, Fabrizio Forché, sulle nuove polemiche sui Casa Monica, sai, ospitati da Vespa. Mi viene sempre da dire Vespa, Porta a Porta da Vespa che abbiamo sentito prima. Sentiamo proprio un passaggio della chiacchierata che ho fatto qui, effetto notte, due sere fa, col vice sindaco di Roma Causi. Proprio un breve passaggio. Non è difficile fare entertainment con questo tipo di anche subculture, quelle sono subculture che anche al confronto con le culture moderne di per sé suscitano una curiosità di tipo culturale. Però bisogna stare molto attenti a fare intrattenimento perché si rischia di mettere in luce un fenomeno di tipo folcloristico, no? di guardarlo, di pensarlo come una cosa folcloristica, quando invece purtroppo folcloristico non lo è per nulla. Basta guardare le inchieste giudiziarie. Fabrizio, quindi prima di lasciarti andare a mangiare le salamelle lì alla Festa dell'Unità, fammi una battuta su... No, speravo che me lo risparmiassi, sinceramente. Senti, da un punto di vista giornalistico credo sia indiscutibile che comunque l'intervista ci sta tutta dal punto di vista giornalistico. Forse si poteva evitare di farli sedere sulle poltroncine, quella che oramai è considerata da tutti quasi la terza camera nel nostro Parlamento. Insomma, lì c'è stata un po' una profanazione forse dello studio di Porta a Porta. Insomma, giornalisticamente c'era, forse si poteva fare in maniera diversa, magari con un collegamento esterno. Insomma, si poteva segnare una demarcazione tra lo studio dove si invitano magari i politici, il Presidente del Consiglio, i ministri e dei aderenti comunque a un confronto criminale come erano i due tribuni dell'altra sera, e quindi tenerli magari fuori dallo studio. Grazie Fabrizio Forché, grazie, buona continuazione, grazie. Ciao Fabrizio, ciao. Un abbraccio, ciao. E adesso ci prendiamo una piccola pausa di ricreazione, continuano i vostri messaggi dal 349-238-6666, la pagina Facebook di Effetto Notte. C'è Giorgio che fa tutto un ragionamento sull'intervento della Russia in Siria, ne abbiamo parlato in modo approfondito ieri, e dice che è uno schifo la reazione occidentale, e questa reazione dell'Occidente nei confronti della Russia smaschera le sue reali intenzioni: chiudere il processo delle primavere arabe con la caduta di Assad e conseguente presa di potere da parte dell'ISIS, dice Giorgio. I governi occidentali quindi appoggiano l'ISIS, ma insomma questa è una congettura un po' complicata, anche se sappiamo che in retroscena nella geopolitica internazionale possono essere davvero tanti e inediti o sconosciuti, insomma, ai più. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, e potete continuare con i vostri commenti anche per esempio sul fatto di questo anniversario. Ormai siamo lontani 14 anni da quello che successe negli Stati Uniti a New York, però voi come lo vivete a 14 anni di distanza quell'11 settembre? Lo avete visto, ve lo ricordate attraverso i media, la TV, la radio, anche noi proprio di Radio 24 ve l'abbiamo raccontato in diretta, mi ricordo benissimo. Che sensazioni avete a distanza di 14 anni? A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Riprendiamo allora da dove ci eravamo lasciati, Roberto Giordano, con voi, i vostri messaggi continuano sulla pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms al 349-238-6666. Qualcuno scrive: state parlando di questo ragazzo sparato da una settimana, agite sullo psicologico buonismo di massa, a Napoli non si viene sparati senza gravi motivi, ingenui. Beh, insomma, se fosse così, caro ascoltatrice o caro ascoltatore, insomma, il problema avrebbe tutta un'altra configurazione se si ammazzassero tra di loro, diciamo, i criminali. Purtroppo non è così. E poi, invece, per quanto riguarda le altre notizie, le principali ve le ricordo tra poco, e ricorderemo anche insieme l'11 settembre degli Stati Uniti, ma non solo. L'impresa straordinaria delle due tenniste italiane che hanno fatto praticamente già storia, Flavia Pennetta e Roberta Vinci, Flavia Pennetta che ha battuto la romena Alep mentre Roberta Vinci ha vinto contro Serena Williams, e si troveranno faccia a faccia in finale agli US Open. E poi l'emergenza migranti con il pugno duro dell'Ungheria che continua a costruire il muro anche con dei detenuti, e dice chi entrerà prossimamente in Ungheria clandestinamente sarà immediatamente arrestato. E secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nei primi 9 mesi del 2015 sono stati gli arrivi dal Mediterraneo 432.000, le persone annegate 2.748. E poi la Mecca, città santa dell'Islam in Arabia Saudita, crolla una gru sui pellegrini, almeno 87 morti e oltre 150 i feriti. Segni di ripresa per l'economia italiana: dopo i consumi cresce anche la produzione industriale, anche se il presidente di Confindustria Squinzi è cauto e dice questi dati però devono poi confermarsi. L'omicidio di ieri, genitori in aula con l'imputato Bossetti per la ripresa del processo, il padre piange e dice era il sale della nostra vita. E poi a Napoli, folla commossa, oggi il funerale del 17enne Jenny ucciso a colpi di pistola. Per il cinema, a Venezia il film di Gaudino viene applaudito, Per amor vostro si intitola, con Valeria Golino, e a Lido sbarca anche Vasco Rossi. E quindi 14 anni sono passati da quell'11 settembre per gli Stati Uniti, ricordo il dolore, la commozione, l'America naturalmente che non può dimenticare gli attacchi alle Torri Gemelle, per il rispetto delle vittime, di chi è sopravvissuto e anche in qualche modo per esorcizzare quello che è successo. Ne parliamo con Marco Bassani, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Ciao Marco. Ciao, buonasera. Quindi anche oggi, dopo 14 anni, l'America si è fermata per questa commemorazione? Sì, come ormai ogni anno dal 2001 ad oggi l'America si è fermata, ha reso omaggio alle quasi 3.000 vittime di quello che è stato l'attentato più drammatico, l'attacco è sul suolo americano più drammatico da Pearl Harbor e che ha reso evidente quanto anche gli Stati Uniti siano, anche la superpotenza americana sia vulnerabile nell'era del terrorismo globale. I minuti di silenzio si sono ripetuti a partire proprio dal primo momento dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001, cioè da quelle 8:46 del mattino in cui il primo velivolo dirottato fu fatto schiantare dai terroristi Al Qaeda contro il World Trade Center. Marco, ma adesso l'America e gli Stati Uniti di Obama sono comunque impegnati su altri fronti, no? Leggevo anche che l'ISIS ha rivendicato, non so se degli attacchi o ha fatto delle minacce di cyberattacchi, insomma, dei siti governativi americani. Sì, ecco, uno degli elementi di questo anniversario è sicuramente questo, che dopo 14 anni comunque la paura della minaccia del terrorismo rimane viva. Se appunto l'anniversario è avvenuto, diciamo, all'ombra della per la prima volta della ricostruzione avvenuta a New York, perché è il primo anno in cui il ricordo delle vittime è avvenuto con il nuovo grattacielo del One World Trade Center ufficialmente inaugurato, però ecco, sono avvenute allo stesso tempo anche nuove minacce. Ricordavi, l'FBI ha riportato minacce di possibili possibili attacchi cibernetici, elettronici da gruppi che si ispirano all'ISIS, anche se poi per il momento non ci sono stati episodi veri. Mi sembra che per questa giornata possa bastare qui. Grazie Marco Valsania da New York. Ciao Marco. A voi. Aggiornamenti per chi viaggia. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E rieccovele in pochi secondi. A proposito dell'emergenza migranti, il pugno di ferro di Orban, il primo ministro ungherese, che dice: arresteremo tutti gli illegali. Poi i dati OIM nel 2015, record di arrivi via mare e quasi 3.000 morti affogati. E poi Renzi che dice: ci saranno un aumento delle stime della crescita per gli italiani. Gli italiani hanno delle certezze ora, tant'è che il 40% in più dei mutui dimostra che l'Italia pensa sul lungo periodo. Queste le ultime dichiarazioni di Renzi. E poi Pennetta e Vinci che scrivono la storia del tennis italiano, due italiane in finale agli US Open di tennis. E poi segni di ripresa dopo i consumi, cresce la produzione industriale, riprende il processo per l'omicidio della piccola Liara. Oggi Massimo Bossetti, l'unico imputato, era seduto vicino ai genitori della tredicenne uccisa nel 2010. E poi 14 anni fa, l'11 settembre, Obama dice: siamo più forti che mai. Europa 24 notte. Continuiamo il viaggio di Radio 24 lungo le rotte dei migranti. Andiamo in Bulgaria, al confine con la Turchia, dove il governo di Sofia sta allungando una barriera di filo spinato per fermare i migranti, un po' come l'Ungheria. Da qui, sulla rotta dei Balcani, sono in azione anche la maggior parte dei 30.000 trafficanti calcolati da Europol. E la Bulgaria non lesina anche critiche al piano comunitario sulla ripartizione delle quote. Ecco un'anticipazione quindi del reportage di Raffaella Calandra, in onda domani alle 7:15. Il vento porta l'aria fredda dell'inverno in Bulgaria, ma qui, al contrario dell'Italia, non significa un crollo degli arrivi, anzi, è proprio quando il mare diventa troppo infido che i migranti continuano da qui, via terra, il loro cammino verso l'Unione Europea. Lo sanno perfettamente le autorità che stanno allargando già i centri di raccolta, come ci dice il direttore dell'Agenzia di Stato per i Rifugiati, Nikola Kazakov. Nei primi 8 mesi, al confronto con l'anno scorso, le persone che hanno chiesto l'asilo sono quasi il doppio del passato. Il flusso sta salendo moltissimo. Nel mese di luglio c'è stato il picco. Noi registriamo e prendiamo le impronte di chi arriva qua e per questo ora preferiscono la Grecia. La capacità totale dei centri di accoglienza è di 5.130 persone e ora lo stiamo ampliando di altri 1.400 posti. Che ora il viaggio prosegue soprattutto via terra lo sanno perfettamente i trafficanti che stanno organizzando sempre più percorsi in camion e auto attraverso il confine. Lo racconta direttamente chi è arrivato così, come Ahmed, 20 anni, siriano. Sono entrato in Bulgaria dopo 7 tentativi. A volte mi ha fermato la polizia turca, altre quella bulgara. Alla fine sono entrato nascosto in un camion dopo aver pagato 2.500 euro. Ho trovato il trafficante attraverso giri di amici in Turchia. Gli ho mandato i soldi con money transfer. E ora sempre di più si parte così. E ora, dopo la decisione della Germania di accogliere i profughi bloccati in Ungheria, il passaparola tra i quasi 2 milioni di siriani, iracheni ed afghani già sfollati nei campi turchi è subito iniziato. D'altra parte, in questo ponte naturale tra Europa e Asia, ossia la rotta dei Balcani, sono in azione la maggior parte dei 30.000 sospetti trafficanti calcolati da Europol, l'unità anticrimine europea. Molteplici le nazionalità, diverse le mafie che speculano sul cammino di chi scappa dalle guerre, ma molti sono proprio gli ex profughi che fanno da tramite tra chi bussa alle porte dell'Unione e gli inafferrabili boss. Il governo, attraverso il vice ministro all'interno di Sofia, Filippo Gunev, annuncia una stretta contro i trafficanti, ma anche su questo, come sul contestato muro con la Turchia e sulle quote, punta il dito contro Bruxelles. Si tratta tra l'altro molto spesso di rifugiati che già hanno uno statuto, diciamo, ufficiale in Bulgaria e che molto spesso fanno questo tipo di attività non all'interno di una rete strutturata, e questo tipo di attività illegale ha portato per la prima volta ad una criminalità non bulgara. Anche nel caso del tragico incidente in Austria, il capogruppo cittadino afgano, buona parte dei bulgari arrestati in qualche modo fornivano una manovalanza. Non vuole essere un muro. Fondamentalmente questa struttura è uno strumento che rende più facile il controllo, la gestione del confine. In questo momento ci sono 2.500 uomini del ministero che pattugliano la frontiera, ci sono 3 ufficiali di Frontex. La Commissione europea, nel periodo dei prossimi 7 anni, ha assegnato alla Bulgaria un contributo di 35 milioni di euro, largamente insufficiente. Questi pochi fondi in qualche modo ci obbligano a cercare delle strategie che ci permettano di gestire i nostri confini anche dal punto di vista economico. Ma nessun muro di filo spinato che toglieremo, spiega, solo quando la situazione tornerà normale e nessun rigido inverno potrà fermare chi è in cammino verso una vita migliore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E ora il nostro portatore sano di sole, Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Paolo, anche se di sole qui a Milano si comincia a vedere poco, eh? Hai ragione, sì, buonasera Roberta. Guarda, in effetti nel weekend la situazione tra l'altro andrà addirittura peggiorando, ma solo in una parte d'Italia. Allora cominciamo da domani, quando il tempo tutto sommato sarà discreto, anche se al nord, proprio al nord-ovest, avremo anche domani parecchie nuvole, ma senza grandi conseguenze. Invece, ahimè, domenica arriva una perturbazione vera e propria e comincia proprio dal nord-ovest, poi andrà a prendere anche la Toscana, l'Emilia, il nord-est a fine giornata, quindi per queste zone tornano le piogge. Invece pensa che nel resto d'Italia, quindi in molte zone del centro-sud, anche domenica il tempo sarà buono e al sud toccheremo i 30 gradi, quindi ancora estate, e al sud settimana prossima potremo addirittura superarli. Insomma, colpo di coda dell'estate quantomeno in mezza Italia. Grazie Paolo Corazzone, anche se il caldo deve arrivare qui a Milano, anche se molti mi odieranno per questo. Ciao Paolo. Ciao, buona serata, buon weekend. Enrico Paglierini, hai ben 22 secondi per dire la tua. Ma volevo parlare del freddo. No, molto velocemente. Volevo parlare di 2024, questa sera riprende la nostra stagione. Grande rientro. Ecco, basta, non ti devo dire tra altro. Poco. Tra poco. Tecnologia a portata di mano. Sì, ti piace questo slogan? Mi piace come slogan, dopo ci mettiamo d'accordo. Un obolo, va bene. Perfetto. Grazie Enrico Pagliarini, ciao. Noi ci sentiamo alle 22.